Di nuovo, bruscamente, l'una di primavera si ritrovò nell'enorme spazio rettangolare, con le sue interminabili file di persone che sedevano immobili ad ascoltare. Le grandi finestre di vetro, le pareti bianche, spoglie, la croce che sembrava sul punto di cadere, tutto così diverso dai suoi templi con gli angoli immersi nell'ombra, suggestivi e incantati. Le avevano forse fatto vedere questa stanza la prima volta che aveva accompagnato Giada Lucente alla scuola? Non ricordava, non ricordava niente di quella prima visita. Trovandosi in quel luogo adesso le sembrò di non averlo mai visto veramente. Le alte siepi, i sentieri diritti, gli enormi edifici con le stanze disposte verticalmente sotto uno stesso tetto che si innalzava bruscamente verso l'alto, anziché curvarsi dolcemente fino a congiungersi con i cieli. Tutto così rigido, come se fosse stato costruito per sfidare gli elementi, per sfidare la natura, per contrapporre, piuttosto che per armonizzare. Ah, se l'avesse notato, allora forse non vi avrebbe lasciato Giada Lucente. E a nome delle mie compagne di classe ringrazio voi, nostre insegnanti, dal profondo del cuore. Giada Lucente si eresse in tutta la sua statura, poi si inchinò profondamente. 20 d'agosto diede il via agli applausi in modo così energico da scuotere l'intera panchina. Anche Promessa Costante batté le mani, imitandolo, finché l'una di primavera, inorridita da quello spettacolo, si allungò per fermarlo. Di nuovo intercettò lo sguardo di Talento Coraggioso. Lui scosse la testa, sorridendo. Improvvisamente sorrise anche lei. Era davvero difficile controllarsi quando la propria figlia eccelleva in tutto. Gradualmente gli applausi si smorzarono e la direttrice annunciò la consegna dei diplomi. Man mano che le ragazze, una dopo l'altra, avanzavano per ricevere il loro certificato e stringere la mano alle insegnanti, gli applausi esplodevano di nuovo. Questa volta batté le mani anche l'una di primavera per tutte le diplomate. Quando l'ultima ragazza fu tornata al suo posto, risuonò una musica d'organo. Il pubblico si alzò e prese a cantare. Come aveva già fatto all'inizio della cerimonia, anche l'una di primavera si tirò faticosamente in piedi, prese il libro dei canti davanti a sé, lo aprì e guardò la pagina, senza capire. Riuscì ad afferrare pochissime parole, qualcosa sui soldati cristiani e sulla croce di Gesù. 20 d'agosto al suo fianco sembrava conoscere bene l'inno. La sua esuberante voce di baritono si levò inaspettatamente e lei si chiese per un attimo dove l'avesse imparato. Poi riportò la sua attenzione su Giada Lucente. Quando l'inno fu terminato, fece per sedersi, ma si alzò di nuovo quando si accorse che gli altri si erano limitati a chinare il capo. Il prete si era fatto avanti e pregava ad alta voce: Che il Signore vi benedica, andate in pace. Amen. Finalmente il rito era giunto alla fine e le diplomate scendevano ordinatamente dalla piattaforma per salutare i familiari che stavano raccolti a gruppetti lungo le navate. L'una di primavera aspettava Giada Lucente e la guardava mentre si dirigeva verso di loro. Un attimo dopo si ritrovò stretta in un abbraccio. Madre, come sono felice di vederti! L'una di primavera se ne stava rigida, benché altri facessero mostra di simili intimità in pubblico. Lei non riusciva. Figlia mia, disse in tono formale, è da molto tempo che non ci vediamo. Fatti vedere. Per un attimo i loro occhi si incontrarono e la madre pensò: Figlia mia, sei così cresciuta, così bella. Voleva protendersi verso di lei, accarezzarle la guancia. Pronipote, sono felice di rivederti. La voce di Talento Coraggioso la richiamò alla realtà. Prozio, disse Giada Lucente, inchinandosi. E io sono piccolo tesoro, urlò il bambino. Sau Sau ti ha scritto di me. No, no, sono Promessa Costante. Ridendo, Giada Lucente si chinò per abbracciarlo. Soltanto allora, l'una di primavera ricordò che 20 d'agosto stava aspettando. Giada Lucente, riconosci il tuo amico? La ragazza scosse la testa, come sforzandosi di ricordare, lanciando una rapida occhiata al giovanotto. Prima che qualcuno potesse parlare, lui si fece avanti e le porse la mano. Meccanicamente Giada Lucente la strinse, poi si affrettò a lasciarla andare, come se si fosse resa conto che stringere la mano a uno sconosciuto era una di quelle usanze straniere da cui persino la ragazza più occidentalizzata doveva astenersi. Sorellina, sono 20 d'agosto! Giada Lucente lo fissava a occhi aperti. Sì, fece lui, sì, sono 20 d'agosto, non mi ricordi? Sorrise e improvvisamente Giada Lucente scoppiò di nuovo a ridere. Fratello caro, disse inchinandosi, sorella cara. Poi seguì una moltitudine di saluti fra Giada Lucente e gli altri ospiti e studenti che si congratulavano con lei. L'una di primavera faceva cortesi cenni col capo, restando in silenzio. Sua figlia parlava rapidamente, alternando inglese e cinese, presentando le sue amiche e i loro parenti, il prete, l'insegnante di matematica, tutti sembravano perfettamente a loro agio. 20 d'agosto era disinvolto quanto Giada Lucente. Talento coraggioso non aveva dimenticato le formalità occidentali che aveva imparato. Persino le donne che non parlavano inglese avevano indossato le attillate tuniche alla moda e annuivano e sorridevano con naturalezza. Possiamo andarcene ora, figlia mia? Chiese improvvisamente l'una di primavera durante una pausa. Desiderava ritrovarsi fra la sua gente. Oh, non ancora. Ora serviremo il tè in giardino e poi voglio che tu conosca Miss Clayton. Se tutto ciò è in programma. D'accordo. Giada Lucente li precedeva, camminando veloce al fianco di Talento Coraggioso e tenendo il suo stesso passo, fermandosi di tanto in tanto per stringere le mani a qualcuno o inchinarsi per fare e ricevere complimenti. Era 20 d'agosto che faceva da cavaliere all'una di primavera e di tanto in tanto si prendeva il bambino sulle spalle, ignorando sia lo sguardo di disapprovazione di una delle vecchie insegnanti, sia il rischio di macchiarsi l'abito bianco di lino. Non c'è motivo di affrettarsi, zia. Lascia che quella gente dai piedi grossi vada pure avanti. Io e te ce la prendiamo comoda. Lui solo si era ricordato dei suoi gigli dorati e lei ne fu commossa. I tavolini per il tè erano stati disposti nei campi di badminton circondati da alte siepi. Ciascuna diplomata intratteneva gli ospiti al suo tavolo, versando il tè, offrendo i sandwich rotondi coi cetrioli e quelli triangolari coi crescioni. Dopo che 20 d'agosto ebbe aiutato l'una di primavera a sedersi, estrasse l'orologio e lo mise sulla tavola davanti al posto accanto al suo. Dando un'occhiata a Promessa Costante, che si era messo a sedere accanto a Giada Lucente, lentamente aprì il coperchio. Improvvisamente si udì della musica. Promessa Costante, gli occhi spalancati come quelli di un drago, scese dalla sua sedia e corse a guardare l'orologio. Ridendo, 20 d'agosto lo tirò su in modo che potesse ispezionarlo, prima di spostarsi elegantemente sulla sedia accanto alla sua amica d'infanzia. Mentre Giada Lucente versava il tè, lei fece dei complimenti, ma lei non gli sorrise. L'una di primavera fu sollevata. Perlomeno in questo la bambina, che un tempo non aveva dissimulato la sua simpatia per il robusto ragazzotto, era cresciuta con la modestia che le si conveniva. Ma poco dopo, Giada Lucente cercò di ricordare l'ultima volta che si erano visti. Lui insisteva che ciò era avvenuto il giorno in cui lei era partita. Lei lo negò con decisione. Lui le chiese se ricordava la festa di Capodanno, quando aveva scandalizzato il clan sedendosi accanto all'orfano. Lei scoppiò a ridere senza negarlo e offrendogli un sandwich coi cetrioli. Benché 20 d'agosto fosse alto appena quanto Giada Lucente, sembrava radunare nella sua struttura compatta l'energia e il fascino di più uomini, e c'era un fervore nei suoi occhi che contraddiceva la sua disinvoltura, come se attendesse questo incontro da molto tempo. L'aveva conosciuta così bene, allora? Si domandò la madre, nonostante le mura del giardino. Quali sono i tuoi piani per il futuro, pronipote? Chiese Talento Coraggioso dopo che tutti furono serviti. Compiere l'opera di Dio, rispose per lei 20 d'agosto. Opera di Dio o no? Disse l'una di primavera. Per prima cosa torniamo a Suiciao. Abbiamo bisogno di stare insieme. Sì, madre, sì. Ma tornerai a Shanghai, non è vero, sorellina? Chiese 20 d'agosto. Andrò dove il Signore mi manda. Ah, allora non ci sono dubbi. Shanghai è la città del peccato. Noi peccatori abbiamo bisogno di te. Lui ammiccò porgendole la tazza perché gliela riempisse, ma Giada Lucente si era voltata, concentrando la sua attenzione su una donna alta dai capelli rossicci che stava dirigendosi verso il loro tavolo. Aveva un'andatura maschile come Giada Lucente e altre donne dai piedi grossi. Oh, madre, è Miss Clayton! Per la prima volta Giada Lucente sembrava imbarazzata. Ti piacerà, è stata come una zia per me. Mentre Miss Clayton si avvicinava, L'una di primavera vide un volto segnato con un naso prominente, ma erano gli occhi azzurri e intelligenti a dominare. Dopo le presentazioni, la missionaria prese il posto vuoto a tavola e, rivolta a nessuno in particolare, disse: «Siamo molto affezionate alla nostra Margaret». «Margaret?» fece 20 d'agosto. E poi ridendo: «Naturalmente intende mia sorella Giada Lucente. Miss Clayton annuì. I nomi cinesi sono così difficili. Con una o due potremmo cavarcela, ma abbiamo 100 ragazze. Per le giovani insegnanti, soprattutto, imparare a memoria i nomi cinesi sarebbe troppo difficile». «È molto comprensibile», commentò cortesemente l'una di primavera, incapace di reprimere il pensiero che Giada Lucente era riuscita a imparare tante parole inglesi da fare un intero discorso in quella lingua. «Lei stessa...» Ma Miss Clayton aveva ripreso a parlare. «Sì, Margaret ha superato tutte le nostre aspettative. Siamo molto fiere di lei, molto fiere. Per le donne cinesi sarà un fulgido esempio di quel che si può raggiungere con l'istruzione». L'una di primavera abbassò gli occhi a disagio. Una straniera vantava le doti di sua figlia. Fare simili lodi era forse un'usanza degli stranieri? «Non è soddisfatta dei risultati che Margaret ha conseguito in questi 6 anni, Mrs. Wu?» «Dei risultati che lei ha conseguito, onorevole insegnante, per la mia povera figlia!» esplose l'una di primavera. Prima che Miss Clayton potesse rispondere, 20 d'agosto intervenne, complimentandosi con lei per la cerimonia e deviando abilmente la conversazione verso altri argomenti. «Qual è la sua città d'origine, Miss Clayton?» chiese. «Filadelfia. Oh, meravigliosa città, meravigliosa!» annuì entusiasta. «Quando l'ha visitata?» «Mai. Ma per me Filadelfia è l'equivalente del cielo. Non occorre andarci per sapere che è un bel posto». Rimasta momentaneamente senza parole, la missionaria esibì un sorriso incerto. 20 d'agosto sembrò non accorgersene e proseguì raccontando una storia sentita durante una crociera che aveva fatto per motivi di salute. «Sei stato ammalato?» chiese Giada Lucente. «Ah, sorellina, vedo che sei preoccupata, ma non è il caso. Il mio viaggio, come la medicina tradizionale, è stato preventivo. Perché aspettare di ammalarsi per godersi una crociera?» Seguirono discussioni sui meriti della medicina orientale e occidentale, della Young Women's Christian Association in Cina e sui problemi del banditismo. Mentre Miss Clayton, 20 d'agosto, e Giada Lucente chiacchieravano, l'ora lentamente passò. L'una di primavera in silenzio osservava le ombre proiettate dalle alte siepi ricadere sul tavolo come un velo cupo. Anche Talento Coraggioso parlava poco, ma si fece attento quando verso la fine la conversazione cadde sulla politica. Il bambino, che nel frattempo gli si era seduto in grembo, si era addormentato e molti tavoli erano vuoti. «Secondo lei, Mr. Chang, la Cina si unirà all'America e agli alleati in questa guerra?» chiese Miss Clayton. Lui annuì pensieroso, concedendosi una pausa prima di parlare. «Io credo che Pechino stia per annunciare la sua decisione in senso affermativo. Se dipendesse da me, manterrei la Cina neutrale». Giada Lucente interruppe il silenzio che seguì. «Perché, prozio? Perché siete contrario all'entrata della Cina in guerra?» Se Talento Coraggioso rimase sorpreso da quella domanda diretta, non lo diede a vedere e rispose tranquillamente: «Perché la Cina non ha nessun particolare motivo di ostilità verso la Germania, nipote, e Pechino si propone di entrare in guerra soltanto per ricevere ulteriori armi e prestiti dagli alleati. Io non credo che il nostro popolo e il nostro povero paese possa permettersi ulteriori generosità da parte degli alleati». Scosse la testa. «Forse, disse Miss Clayton, se la Cina si unisce agli alleati potrà godere in seguito dei frutti della vittoria, altrimenti non avrà voce in capitolo nel mondo del futuro». Con orrore di luna di primavera, sua figlia prese di nuovo la parola. «Io penso che la Cina dovrebbe partecipare alla guerra. Il presidente Wilson ha detto che bisogna preservare la democrazia nel mondo. La Cina avrebbe tutto da guadagnare da un simile principio. Potete forse negarlo, prozio?» Di nuovo Talento Coraggioso rispose, come se non avesse notato la sua scortesia. «Talvolta accade che i principi vengono sacrificati alle leggi del potere. Un tempo Yuan Shihai promise di difendere i principi repubblicani». «Ma, prozio, il presidente Wilson Non è Yuan. Luna di primavera si schiarì la voce, sperando di attirare l'attenzione della figlia e di porre fine alla sua insolenza, benché Talento Coraggioso non sembrasse ancora offeso. Pronipote, disse lui gentilmente, è soltanto un uomo. È un cristiano. A quel punto Luna di primavera parlò in cinese. Come osa mia figlia mettersi sullo stesso piano del patriarca? E lei replicò in inglese, Madre, ognuna ha diritto di esprimere le proprie opinioni. Non si vergognava. Luna di primavera parlò di nuovo in cinese. Ti proibisco di usare ancora quel tono. Non ti è forse passato per la mente che anche il sovrano tedesco è un adoratore di Gesù? Ci fu un silenzio molto imbarazzante. Tanto meglio, pensò Luna di primavera. Gli anziani sono anziani, anche a una cerimonia per il diploma. 20 d'agosto fu il primo a riprendersi. Battendo le mani, disse allegramente: Dunque, lasciatemi tradurre. Vede, Miss Clayton, lei ci ha talmente messi a nostro agio da farci dimenticare che non conosce la nostra lingua. La mia onorevole zia sta dicendo che i sandwich rotondi sono più saporiti, ma la mia giovane sorella era di opinione diversa, preferendo evidentemente quelli triangolari. Quanto a me, concordo col mio scomparso amico, De gustibus non disputandum est. Benché non tutti non l'avessero capita, l'ultima battuta fu accolta da grandi risate. Sempre ridendo, si congedarono da Miss Clayton e lentamente si avviarono verso i cancelli principali della scuola. Già da lucente 20 d'agosto tenevano per mano il bambino. Mentre passavano davanti alla cappella, Talento Coraggioso si voltò verso Luna di Primavera e disse a bassa voce in modo che nessuno potesse udire: Suo padre sarebbe stato contento di lei oggi, ne sono certo. Sua madre. Luna di primavera si interruppe, ricordando, poi lentamente sorrise. Anche sua madre. Quando, superati i cancelli, furono davanti alla freccia penetrante, il bambino, svegliatosi improvvisamente dal suo torpore, tirò già da lucente per una mano. Vieni, nipote, vieni a vedere. Ma già da lucente si era nuovamente voltata verso la scuola della missione. Per un attimo rimase così, eretta, immobile, a guardare. I suoi occhi, notò Luna di primavera, erano umidi di lacrime. 26. I doni. Non molto tempo fa, nella provincia del Jiangsu, un giovane orfano decise di tentare la fortuna e lasciò la casa dei suoi benefattori. A Qingyang, dove si incrociano il Gran Canale e il fiume Yangtze, ascoltava le chiacchiere che si facevano nelle sale da tè, perdendo deliberatamente alle carte in modo da essere ben accettato a ogni tavolo. Apprese così il nome del compratore che aveva fatto più denaro in breve tempo e con un capitale minimo. Giocando col grande uomo alla casa da tè dei baffi ubriachi, l'orfano lasciò intendere che egli era in realtà l'erede e reietto di un clan importante e perse di nuovo. Incapace di assolvere i suoi debiti, si offrì come aiutante non pagato. E il compratore, che non aveva nulla da perdere e aveva la prospettiva di guadagnarsi il favore di un clan potente, accettò. L'orfano imparò i metodi di vendita, la contabilità e il modo di gestire l'inventario. Dopo 6 mesi il debito fu pagato ed egli partì per Yangzhou, dove, da un altro insegnante involontario, apprese nozioni sul credito, sul cambio estero e sull'attività delle fabbriche. La sua mossa successiva fu imparare l'inglese, la lingua del denaro. A Nanchino si presentò alla missione Battista. Aveva promesso alla sua diletta madre, disse, pochi minuti prima che varcasse i cancelli di giada del cielo cristiano, che anch'egli avrebbe abbracciato la religione cristiana e diffuso la buona novella fra la gente. Il capo della missione in persona cominciò a insegnargli l'inglese. Dopo un anno, egli chiese un permesso per visitare la tomba della madre e si mise subito in cammino, cantando allegramente, sia lodato il Signore dal quale provengono tutte le benedizioni. A Shanghai ottenne un posto come steward sul piroscafo Odissea. Eseguiva accuratamente i suoi doveri, studiava diligentemente il comportamento dei ricchi forestieri. Uno fra i passeggeri viaggiava solo. Era, spiegò il commissario di bordo, un ricco ebreo tedesco che veniva a Shanghai ed era in viaggio per motivi di salute. Quando sbarcò, il tedesco offrì allo steward un posto come esattore degli affari. In breve tempo l'orfano seppe esattamente quali inquilini erano poco affidabili e quali erano tipi da andarsene senza pagare. a uno furono sostituiti da alberi del denaro, donne prospere e discrete, i cui unici clienti erano europei molto rispettabili. Nel giro di un anno divenne l'assistente personale del padrone e una nuova scrivania saracinesca fu installata nell'ufficio accanto a quella vecchia. Dopo 2 anni cominciarono a circolare voci che le proprietà degli ebrei sarebbero state confiscate e così, per pura precauzione, il padrone intestò i suoi beni a nome del suo assistente cinese. Brindando alla loro lungimiranza con sherry dannata, nessuno dei due pensava che qualcosa fosse cambiato. Poi, una sera, dopo che il suo protetto se n'era andato, il vecchio sedette alla scrivania per dare un'occhiata alle colonne del libromastro. Il mattino, l'assistente lo trovò seduto lì, immobile. Il giovane prese con delicatezza il corpo fra le braccia e lo depose sul letto nella stanza sul retro, dove il vecchio solitamente dormiva. Frugando attorno non trovò nessun oggetto appartenente alla sua famiglia, soltanto la fotografia sbiadita di una casetta di legno infilata in un angolo dello specchio. Ordinò la bara più costosa e una copia dell'abito scuro del morto. Fedele in ogni particolare, persino con la bruciatura di sigaretta sulla manica. Commissionò un monumento di marmo somigliante alla casa della foto e il 49° giorno, con la barba lunga, i capelli spettinati, l'erede guidò un'imponente processione fino al sito della tomba. Seguivano persone ingaggiate per il lutto con canapa bianca legata intorno alla testa e alla vita e le signore della notte in seta scura e cuffie eleganti. I gemiti della folla commossero fino alle lacrime persino il cielo, mentre la banda dell'albergo Astor suonava il valzer del Danubio blu. Storia di Clan. 20 d'agosto scortò i VU a Suzhou su una delle case battello. Il viaggio durò 3 giorni e 3 notti. La sera i viaggiatori indugiavano sul ponte, avviluppati dal buio e dalla fragranza del gelsomino. Non c'era luna, cosicché le rive si dissolvevano e il tremolio delle lanterne sullo Yulo davanti a loro sembrava confondersi con le luci del cielo. Sembrava quasi che la casa battello venisse rimorchiata attraverso il fiume di stelle, il capo rivolto verso il cielo. Luna di primavera sognava, abbandonandosi alla gioia di tornare a casa, pensando solo di tanto in tanto che avrebbe trovato qualcosa di cambiato, che avrebbe trovata sua madre coi capelli grigi. Talvolta Luna di primavera e 20 d'agosto si alternavano nel raccontare storie al bambino seduto in grembo a giada lucente e ridevano quanto lei. A un certo punto, nella sua esuberanza, Promessa Costante inciampò rischiando di cadere in acqua. Allora, 20 d'agosto, legò una corda intorno al bambino, assicurandosene un'estremità intorno alla vita e dandogli a intendere che fosse un gioco. 20 d'agosto dava assurde versioni dei vari modi in cui aveva accumulato la sua ricchezza. Non molto tempo fa, diceva, fui presentato al più importante uomo d'affari del mondo e egli immediatamente vide in me una tale promessa che mi pregò di diventare socio. Oppure, andai in Tibet dove il Dalai Lama mi coprì di diamanti e rubini, uno per ciascun osso del mio corpo, perché, egli disse, ero destinato a diventare Maharaja. Talvolta spariva improvvisamente sotto coperta e un attimo dopo riemergeva in una nuova tenuta. Pavoneggiandosi sollecitava le loro opinioni sul completo da tennis principe di Galles, oppure sul costume da cavallerizzo principe di Galles. Lui e il principe avevano lo stesso sarto, spiegava, e la stessa cerchia di amici. Come si potrebbe spiegare altrimenti la mia fortuna? Freccia penetrante, la mia flotta di barche, la mia flotta mercantile. Già, come altrimenti? Pensava Luna di primavera che in cuor suo non desiderava conoscere la verità. Lei, invece, raccontava le storie degli antenati e miti, leggende e poesie che già da lucente non aveva mai sentite o aveva dimenticate. Era come se sua figlia fosse ridiventata la sua bambina, come se quegli anni non fossero trascorsi. Di tanto in tanto già da lucente raccontava qualche episodio di scuola o una storia della Bibbia, ma lo faceva con un tale impegno morale da mettere a disagio gli altri. Ai suoi tempi, Felice Promessa era stato altrettanto sincero, ma riusciva anche a ridere di se stesso. Sua figlia rideva delle strampalate sciarade di 20 d'agosto, ma sembrava prendere se stessa molto sul serio. Il cielo era azzurro quando la compagnia scese dall'auto accanto ai leoni di bronzo e da lontano venne lo squillo delle campane della pagoda. Era uno di quei giorni in cui gli spiriti si rallegravano, o almeno così era sembrato all'inizio. Ma mentre stava accanto al muro degli spiriti, Luna di Primavera sentì un'ondata di nostalgia così potente da toglierle il fiato. Aveva provato un'emozione analoga tanto tempo prima, quando, diverse settimane dopo la scomparsa di Felice Promessa, era passata lungo il padiglione sulle colline occidentali credendo che lui fosse là. Oggi, benché sapesse che non c'era più, per un attimo vide la sala delle virtù femminili così com'era stata e la minuscola figura eretta della nonna sulla sedia di palissandro. Quasi senza rendersene conto, aveva attinto all'energia che emanava da quel posto, così come si vive incoscientemente la giovinezza. Ora entrambe erano esaurite. Improvvisamente alla nostalgia subentrò la paura, cancellando i ricordi. Promessa Costante era corso avanti, e se una di quelle vedove dalla vista aguzza avesse scorto la somiglianza? Rapidamente si affrettò a prenderlo per mano, dicendosi allo stesso tempo che quel che era fatto e che non doveva tradirsi. Con uno sforzo sorrise alla guardia. Erano attesi nella sala degli antenati, disse. Come sarebbe stato? Si domandò, ora che non tutte le donne erano schierate al solito posto. 20 d'agosto aveva preso in mano la situazione, dando istruzioni alla guardia in merito alla carovana di doni che presto sarebbe arrivata. Mandali direttamente alla sala, poi chiama tutti i membri della famiglia e vieni anche tu, naturalmente. L'uomo aveva gli occhi sgranati per l'attesa e si inchinò diverse volte. Benvenuti, benvenuti! Che cosa c'è in tutte quelle scatole 20 d'agosto? Chiese Giadalucente. Lo saprai presto. Lui sorrideva aggiustandosi il plastron dell'abito da passeggio. Promessa Costante prese a tirare Luna di Primavera per la mano attraverso l'ingresso che portava nel grande cortile. Immediatamente lei notò che il cancello della bottiglia era scomparso e al suo posto era sorta un'ombra scura di mattoni nuovi che nascondevano la vista. Scomparsi erano il giardino degli scacchi, la scuola, il dormitorio e cos'altro ancora. Scosse il capo. Non doveva pensare a quel che non c'era più, ma a quel che restava. Davanti a lei c'era la sala degli antenati, le rosse colonne dipinte di fresco. Eppure indugiava, ritardando il momento in cui avrebbe visto i cambiamenti all'interno, le nuove tavolette ancestrali dietro l'altare, i vuoti lasciati da quelle che erano state portate in altre città. Improvvisamente vi fu un'esplosione di chiacchiere eccitate. Benvenuti a casa, benvenuti a casa! Come per magia, tutti coloro che ancora vivevano nell'auchia erano comparsi sulla soglia della sala. Luna di Primavera rideva attraverso le lacrime mentre abbracciava a turno ogni donna e si scambiava inchini con quell'imponente giovanotto che era diventato Vista Brillante. Erano come un tempo, le prozie, alba luminosa, neve fragrante, i cui capelli non erano grigi ma tinti d'ebano e disposti sulla nuca come uno scrigno tempestato di perle. Solo Virtù Splendente sembrava invecchiata, la sua figura più matronale. Ma il suo sorriso era caldo. Nipote mia, gridò, come rallegra i nostri cuori la tua presenza. Parlavano tutte insieme, facendo complimenti e ammirando quanto fosse cresciuta già da lucente, e grazie a Buddha il bambino sembrava in buona salute. Nessuno riconobbe 20 d'agosto, che si era presentato con debita modestia, ma era chiaramente compiaciuto del loro stupore. In un'unica ondata di entusiasmo entrarono tutti insieme nella sala degli antenati. La stanza, un tempo armoniosa, era stipata di tavoli da mahjong e da pranzo, con il telaio e le sedie di palissandro provenienti dalla sala delle virtù femminili. Un paravento di ebano nascondeva l'altare e le tavolette degli antenati. Per un istante sembrò a Luna di Primavera che l'allegro benvenuto fosse un po' forzato, come se ciascuno cercasse di ignorare la melanconica differenza. Ma poi, Promessa Costante, la prese per mano, tirandola verso uno dei tavoli su cui erano disposti dei rinfreschi. Vieni, Sao Sao, vieni subito, gridò. Non ho mai visto un palazzo più bello, neppure nei libri. E guardandosi intorno, lei pensò, è proprio così. Lai, lai, gridarono le donne, e rivolgendosi al bambino, ciascuno li invitava a sedere accanto a sé, mentre i viaggiatori si sedevano intorno al tavolo. Promessa costante, guardò l'una di primavera come per ricevere l'imbeccata da lei, poi corse verso la più anziana. La seconda prozia ridacchiò, le altre annuirono in segno di approvazione. La vecchia socchiuse gli occhi osservando il bambino che le saliva in grembo. Hai dei lineamenti molto delicati, assomigli proprio a Vista Gloriosa quando aveva la tua età, non ti pare, sorella? Domandò rivolta ad Alba Luminosa. L'una di primavera si sentì accelerare i battiti del cuore, ma prima che chiunque altro potesse esprimere la propria opinione, Virtù Splendente intervenne. Sciocchezze! Promessa Costante non assomiglia affatto a mio figlio maggiore. È bello, assai più bello di Vista Gloriosa.